Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. L'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale può offrire vantaggi a tutte le aziende, ma solo 2 su 5, tra quelle che hanno intrapreso naturalmente questa strada, hanno fin qui avuto reali benefici. E questo in estrema sintesi, forse anche in modo un po' brutale, il dato che emerge dallo studio Winning with Artificial Intelligence, Pioneers Combined Strategy, Organizational Behavior and Technology. Questo studio è stato curato dal Massachusetts Institute of Technology insieme al Boston Consulting Group, e noi ne parliamo con Fabrizio Pessina, che è Managing Director e Partner di Boston Consulting Group. Buonasera. Buonasera. Allora Pessina, partiamo da un po' di numeri che voi date appunto in questo studio, di successi, insuccessi. Certo, noi abbiamo intervistato circa 2500 manager, ovviamente di diverse organizzazioni in giro per il mondo. E questi sono un po' i dati che emergono, nel senso che, come diceva giustamente lei, due, diciamo, aziende su cinque hanno effettivamente beneficiato dei risultati dall'applicazione di intelligenza artificiale. Giusto per dare un'idea, diciamo, 9 dirigenti, diciamo, su 10 comunque vedono, nonostante, diciamo, gli insuccessi per ora, no? L'intelligenza artificiale come un'opportunità, no? Di business per la loro azienda. È anche vero però che il 45% degli intervistati lo vede anche come un rischio. Certo. Quindi certo. Ovviamente è un argomento sicuramente di interesse, ma con luci e ombre. Quali sono diciamo, le principali opportunità e quali sono i principali rischi che il management ravvisa nell'adozione di intelligenza artificiale? Allora, di fatto le opportunità sono abbastanza note, no? Nel senso che ovviamente questi sono tutti algoritmi e comunque nuove metodologie che ti consentono di migliorare, no? In qualche modo il rapporto col cliente piuttosto che i processi interni. E quindi in ragione una logica, diciamo, di efficacia, ovviamente, ma anche di efficienza. E questo, diciamo, secondo me è il beneficio visto ovviamente un pochettino più dall'esterno. Poi ovviamente i rischi sono legati all'applicazione, perché ovviamente ha impatti, diciamo, organizzativi, perché per far bene all'artificial intelligence devi cambiare, no, profondamente i processi dell'azienda, e non ti nascondo che in alcuni casi ha anche impatto sull'occupazione. Anche qualche impatto sull'occupazione, certo, assolutamente. Paure invece legate a questioni legate, che ne so, privacy e quant'altro? Ma quello è meno rilevante, secondo me, okay. Nel senso che ovviamente esistono, ma sono governabili. Allora, nel vostro studio voi date anche qualche indicazione per applicare l'intelligenza artificiale con successo nella propria impresa. Da queste, tra l'altro, indicazioni forse si può, insomma, dedurre anche cosa non bisogna fare, no? Certo. Allora, qualche suggerimento. Ma allora, innanzitutto ti do qualche numero. L'88% degli intervistati, che ovviamente ha riportato esito positivo, vede comunque l'utilizzo di queste tecnologie o di questa tecnica molto integrata alla strategia complessiva digitale. Quindi non sono, diciamo, esercizi che nascono in modalità isolata, ma sono molto integrati con quello che è un po' la direzione che l'azienda prende, no? E quindi sulla base di quello ovviamente focalizzi tutta una serie di cose, e quindi vado sostanzialmente, diciamo, a proseguire. Quindi banalmente il fatto di avere dei manager, no, di peso, che sono sostanzialmente alla guida di queste iniziative. Certo, questo tra l'altro è anche questo un mantra, e quando si parla di sicurezza informatica a me piace dire: non è mai il problema del Chief Information Officer la sicurezza informatica, quello è l'unico che è sicuro dal punto di vista informatico. Certo. È un problema di tutti gli altri. C'è sempre questo aspetto: se il management, il vertice del management, non è coinvolto in queste trasformazioni, rimangono delle robe di periferia che non impattano. Esatto, e quindi, diciamo, qui la logica non è solo avere, diciamo, i manager giusti, no, al posto giusto, ma ovviamente guardarli in maniera integrata, quindi dalle vendite, la tecnologia, la sicurezza e quant'altro. Poi gli esempi che conosco io di successo effettivamente sono degli esempi che mobilitano l'organizzazione. Chiaro. E questo secondo me è un secondo aspetto. L'altro aspetto che ti dicevo, ovviamente, diciamo, le tecniche di intelligenza artificiale si applicano benissimo a tutti i processi che in qualche modo costano per un'azienda. Però, diciamo, l'obiettivo ultimo è, nei casi di successo, è quello in qualche modo di incrementare i ricavi, no? Quindi lavorare molto sulla top line, e quindi migliorare l'esperienza del cliente, utilizzare, diciamo, queste tecnologie in ambito di ricerca e sviluppo, includere, no, tutta una serie, diciamo, di algoritmi nei prodotti, no? Pensa per esempio alla guida autonoma, no? Ai veicoli autonomi. Certo. Quindi è chiaro che c'è uno spin molto forte sulla crescita, no? Quello che è in qualche modo il cambiamento del modello. E quindi un po' meno sul taglio dei costi. Sì, diciamo, il taglio dei costi è stato l'obiettivo primario, no, da cui sono partiti, perché ovviamente è più semplice. Ovviamente là dove si tocca cliente e prodotti è molto più complicato, però se vedi le trasformazioni vere, quelle che hanno impatto, si stanno focalizzando sempre più su quell'aspetto lì. Ecco, una cosa che però forse ci riporta a qualcosa che stavamo già dicendo e mi ha colpito leggendo lo studio è questo fatto per cui le aziende con, leggo testualmente, con iniziative di intelligenza artificiale sviluppate sotto la supervisione del CIO, quindi il Chief Information Officer, il capo dell'informatica, hanno quasi il 50% di probabilità in meno di trovare, insomma, di creare valore. È curiosa o è sorprendente o ce lo dovevamo aspettare? Ma secondo me ce lo dovevamo un po' aspettare, nel senso che ovviamente bisogna evitare la trappola tecnologica, come la chiamiamo nel nostro report, nel senso che intelligenza artificiale non vuol dire tecnologia, c'è della tecnologia, noi ci aspettiamo che questa tecnologia sarà sempre più commoditizzata, il tema vero è che per farla funzionare devi cambiare la testa delle persone, devi cambiare i processi, devi sostanzialmente anche essere aperto a modalità di lavoro diverse. E sostanzialmente dare in mano questa cosa, adesso a parte diciamo il CIO, ma in generale a una singola persona all'interno dell'organizzazione che non è in grado, no, di tirare tutte queste leve, è ovviamente un rischio. È l'approccio tecnologico che ha sbagliato, cioè pensare all'artificial intelligence come un problema di tecnologia e non un problema organizzativo, esatto, e quant'altro. E però la trappola del digitale anche. Infatti. Ecco, qual è però il principale ostacolo che le aziende incontrano quando vogliono provare a introdurre nei propri processi, insomma, l'intelligenza artificiale? Ma allora guarda, secondo me l'ostacolo è molto simile a quello che c'è sul digitale ed è sostanzialmente l'assenza di talenti. Grazie Fabrizio Pessina. Grazie mille. Cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera, vi do appuntamento a domani. Buona serata, buonanotte qui su Radio 24.